Nozze ad Aviano, sinonimo di primavera. Le campane annunziano e seguono il corteo che dalla casa della sposa si avvia alla chiesa. Danze e villotte a guisa di stornelli lungo la strada e nelle soste, mentre i curiosi si assiepano plaudendo la coppia felice, seguita da un'irrequieta colonna di musici e di danzatori. Le donne de Avian le tutte more, le donne de Avian le ruba il cuore. Buda nasco della, mi son innamorato di mia bella. Caro compare con le mani d'argento, capela per la man me ne la trento. Caro compare con le man d'oro, la pela per la man me ne la incoro. Dopo la cerimonia religiosa, nessuno trattiene la foga delle quadriglie dei danzatori. Legati da un fazzoletto trattenuto alle cocche, essi procedono sino alla casa dello sposo senza riprendere fiato. La vianese, la lavandera, lo spazzacamini, il truc si alternano fra grida e canti, evviva e rincorse, in un crescendo eccitante e fragoroso. Il frastuono tace solo davanti alla casa dello sposo, dove la madre di lui attende la nuvizia per offrirle la scopa e il mestolo, simbolo della podestà domestica, investitura dell'avveniente in qualità di padrona, mentre il fratello minore di lei offre agli invitati vino e pane, simbolo di pace e di abbondanza. Oh, sono arrivata, cara. Quando è stata? Questa è la scopa? E questa è la ciata. E questo è il pan e il vino. Poi ripresa delle danze, frenetica ripresa che riempie la contrada di suoni, di canti, di urla, in attesa del pranzo di gala che durerà sino all'alba. Yahoo! Yahoo! Yahoo! Proprio vero, la piazza di Avian le lunga e larga, così una villotta, con tanta gioventù che fa la guarda. Le fa la guarda, anche se lontana, chiudendo nel cuore il ricordo di queste feste nuziali, in cui il passato aureola il presente di poesia, assicurandola per invisibili fili all'avvenire. Abbiamo trasmesso Friuli nel mondo, nozze friulane ad Aviano, 29ª trasmissione dedicata agli emigrati. Testo di Chino Ermacora, musiche popolari.